Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Buonasera da Maurizio Melis. Settimana scorsa, e precisamente da giovedì 8 a domenica 11, a Firenze si è svolto il Consiglio Mondiale del UCLG, United Cities and Local Governments, ovvero Città e Governi Locali Uniti, un'organizzazione internazionale che rappresenta e difende appunto gli interessi dei governi locali. Si è parlato molto anche di energia e di sostenibilità, che a quanto pare, insomma, sono nei pensieri dei sindaci un po' di tutto il mondo. Per Radio 24 a Firenze c'era Ubaldo Cianciulli, che è in linea con noi per raccontarci com'è andata. Ciao Ubaldo. Ciao Maurizio, buonasera a tutti. Allora, partiamo da qualche dato sulla manifestazione. Chi è che c'era? Allora, intanto la manifestazione in questi tre giorni che si è svolta tra le sale di Palazzo Vecchio e le sale del Palacongressi, ci sono stati tanti sindaci, tanti rappresentanti degli enti locali dell'Italia, dell'Europa e anche di tutti gli altri quattro continenti. Circa 400 città erano rappresentate in questi tre giorni fiorentina, che è un po' diventata, diciamo, l'ombelico del mondo per quello che riguarda l'ambiente, per quello che riguarda la tecnologia e la sua applicabilità alle forme di risparmio energetico, di ambiente sostenibile. Quindi c'erano tanti amministratori locali, ma c'erano anche tante aziende private che hanno presentato i propri prodotti, i propri hardware, le proprie novità per far sì che queste, diciamo, realtà potessero utilizzare le loro innovazioni tecnologiche, tutto al fine di migliorare l'ambiente, al fine di risparmiare il consumo di energia, e questo l'abbiamo potuto vedere soprattutto in due grosse tematiche, quella che dell'illuminazione e quella, diciamo, della mobilità urbana. Ecco, ma toglimi subito una curiosità: so che tu hai incontrato lì anche il sindaco di Kabul. Questi problemi tornano anche lì, anche in una città segnata da eventi, insomma, come quelli che ben conosciamo? In fondo il problema del sindaco è anche quello di gestire la mobilità e l'illuminazione, o in fondo, voglio dire, sono mondi totalmente distanti rispetto alle nostre città occidentali, alla stessa Firenze, no, in cui si è svolto il convegno? No, pur essendo, diciamo, realtà geograficamente molto distanti tra loro e con una storia sia recente ma anche che è passata, certo, lontanissima, molto diverse da loro, hanno invece dei punti di contatto in comune. Ad esempio Kabul, che è comunque una delle città più antiche del mondo, vecchia di 3.000 anni, che recentemente è stata praticamente distrutta, quasi rasa al suolo dagli eventi bellici, deve ricostruirsi, deve ricominciare da capo. E proprio, diciamo, in quest'ottica di avendo dovuto fare, diciamo, tavola rasa e ripartire da zero, ovviamente si sta improntando su una falsa riga di modernità, quindi mobilità sostenibile, quindi illuminazione intelligente, risparmio energetico, anche perché poi alla fin fine questa è una città molto grande che negli ultimi 10 anni, ci ha detto il sindaco, ha quintuplicato la propria popolazione, da 1 milione è passata ai 5 milioni attuali, quindi questo ovviamente è un problema che poi si ripercuote in quella che è la mobilità ordinaria. Una delle novità, tanto per far capire che è vero che siamo in un altro continente, ma il sindaco di Kabul ha tenuto a sottolineare che sono stati piantati 1,5 milioni di alberi. Questo per far capire che poi alla fin fine un occhio di riguardo alla modernità, ma anche un occhio di riguardo all'ambiente. Ecco, quello che è poi ancora emerso da un'intervista che tu hai realizzato a Gino Franco, che è Innovation Manager di Mizar, è un'altra parolina magica che ci aiuta, insomma, credo, a capire qual è il nocciolo della questione. Questa parola magica è integrazione. Parliamo di tecnologie per la mobilità. Mizar è un'azienda che appunto offre questo tipo di servizi. Sentiamo come andata. La chiave è proprio integrare, perché mentre qualche anno fa noi realizzavamo sistemi per il controllo del traffico urbano, per esempio, o sistema di controllo del traffico autostradale, o il sistema per la gestione del trasporto pubblico, poi separatamente l'integrazione dei due per dare la priorità al mezzo pubblico, agli incroci, adesso invece riusciamo a mettere tutto insieme e dare al gestore dell'infrastruttura, della rete, la possibilità di avere in modo omogeneo e in sinergia far lavorare tutti i sistemi per l'unico obiettivo, e quindi quello di migliorare il comfort e l'efficienza del trasporto per il cittadino. Ecco, il cittadino, diciamo, che risposta ha dato? Vedo che questi sistemi comunque possono essere fruiti sostanzialmente con l'utilizzo di cellulari, PC, tablet. Il cittadino in realtà subisce il controllo del traffico comunque, perché a sua insaputa il tempo di verde, di rosso al semaforo viene calcolato in base alla lunghezza della coda, al tempo necessario per smaltirla, eccetera. Riceve l'informazione del tempo di attesa alla fermata del trasporto pubblico e così via. Attraverso l'integrazione però il cittadino può essere più informato, cioè può conoscere in anticipo, può prevedere quanto impiegherà a completare il viaggio e può sapere in anticipo se ci sono dei problemi sul viaggio che sta intraprendendo, sulla scelta che ha fatto per raggiungere la destinazione. Può essere informato, può scegliere quindi con anticipo se cambiare modalità per oggi perché c'è un lavoro in corso o perché c'è un incidente, e conoscendo attraverso questi sistemi quando sarà in grado di raggiungere la propria destinazione, che poi l'informazione che a tutti noi interessa conoscere in anticipo. Senti Ubaldo, i cittadini sembrano reagire positivamente tutto sommato a queste novità, ma le amministrazioni pubbliche invece sono ricettive? Che sensazioni hai avuto tu? Senti, le amministrazioni pubbliche sono ricettive nella misura in cui ci sono già alcuni progetti in rampa di lancio. Vedi ad esempio la provincia di Firenze che a gennaio, quindi praticamente il mese prossimo, partirà con un nuovo sistema di integrazione della mobilità tra 14 soggetti diversi, cioè 14 enti locali, una vera area metropolitana che sarà gestita da un unico soggetto. E questo perché, diciamo, l'importanza è appunto quella di riuscire a gestire delle strutture già esistenti, ci sarà quindi un unico gestore. Altra innovazione partirà nell'Emilia Romagna nel 2013, anche in Piemonte e Torino si sta dando molto da fare per cercare di ottimizzare questi servizi, sempre ovviamente a beneficio dei cittadini e a beneficio di una migliore vivibilità urbana. Grazie Ubaldo Cianciulli. Grazie a voi, buona serata. Beh, prima di lasciarci una breve notizia, perché in Commissione Ambiente, dovete sapere, c'è in corso una sorta di battaglia per prolungare la detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici oltre l'orizzonte del 2013, che è quello deciso fino a questo momento. Già, come dire, la proroga del 55% era stata accolta con grande favore e adesso si cerca anche di renderlo finalmente strutturale. Questa è una battaglia che qui a Mr. Kilowatt abbiamo cercato di fare, vi terremo certamente aggiornati su come andrà a finire. Per intanto ci fermiamo qui, io vi ricordo che potete scrivere a Mr. Kilowatt @radio24.it e ascoltare le trasmissioni dal sito della radio in differita. È veramente tutto, buona serata.